vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 23 di Ratto di Campagna, Topolino di Città, qui su Radio Big World, per voi campagnoli come me, che siete un po' rozzi, che siete un po' arretrati, che siete lontanissimi dalla modernità, ebbene, un soffio, una ventata di aria di città per sgrezzarci, modernizzarci e per renderci 2.0. È una missione difficilissima, ma noi in queste 23 puntate ci abbiamo provato, perlomeno io ho provato a tentare di imparare, ma soprattutto la nostra maestra di bon ton cittadino ha provato a insegnare a noi e è una causa persa. Laura è più o meno 30 anni che prova a insegnare a me un qualcosina di utile per la mia vita e io, zuccone, non ho imparato niente. Ma lasciamo la parola a colei che, mentre noi siamo alla frutta, lei è appena all'antipasto. Laura! Ciao, non mi dire che è l'ultima puntata. È la stagione del ratto di campagna e del topolino di città effettivamente finisce con questa puntata. Ci sono tante cose da fare nell'orto, dai, voi che avete lo smog o che vi preoccupate delle case con l'affaccio o di dove parcheggiare il tucano, e qui da noi ora c'è da stare dietro alle zucchine, ai pomodori, alle zucche, ai fagioli, per cui occupatissimi, lasciamo la città per l'orto, essenzialmente. Laura, in questa puntata finale sarebbe preferibile se riuscissimo a riassumere in alcuni punti quelle che sono le essenziali skills, sempre parlo il creolo ma va di moda in città, sento gente che ogni tre aggettivi ce n'è due inglesi. Insomma, e questo non è un aggettivo, ovviamente, insomma, un vademecum per ricordarci come comportarsi in città, come comportarsi a Firenze e come non comportarsi. E l'esempio che mi viene in mente è, ti ricordi quel cartone animato Ovino va in città? Ora non mi ricordo il titolo inglese, insomma praticamente c'era questa pecora che se ne andava in città e gliene succedevano di tutti i colori. Allora ammettiamo che un ovino o più o meno un rozzone che sta con gli ovini come me decide di provare l'esperienza del vivere metropolitano e lo decide di fare a Firenze, insomma, ha probabilmente desiderio di patirne parecchie. Fatto sta, dove sarebbe preferibile prendere casa a Firenze? Allora, innanzitutto hai detto vademecum, hai detto skills, quindi insomma un po' ti sei sgrezzato. Gente di un certo livello. Questo insomma si spazia dall'inglese al latino e vuol dire che le mie lezioni ti sono servite un po' ad affinarti. Allora rimaniamo in quartieri chic, così come la lingua è chic. Va bene. Allora, verso il Poggio Imperiale, sul viale che va verso Piazzale Michelangelo, oppure passato Piazzale Michelangelo scendendo verso Piazza Ferrucci. Quindi oppure... quelli sono il Parco della Vittoria e Viale dei Giardini di Firenze, praticamente. Anche sì, oppure verso Fiesole, perché no? Ah. Rimaniamo nel comune di Firenze però, altrimenti se già siamo a Fiesole non vale. Vabbè. Bisogna vedere quanto denaro può Ovino investire per prendere casa a Firenze. Però insomma, io do consigli, non do consigli per tutte le tasche, do consigli solo per i facoltosi. Ma d'accordo, qui l'idea è come si fa a passare bene a Firenze. È chiaro che avere un appartamento in condivisione con tre o quattro studenti all'isolotto non è uguale che avere una villa a Fiesole, cioè sulla collina di Fiesole, ma nel comune di Firenze. Di Firenze, d'accordo. Esatto. D'altra parte, Licio Gelli, il venerabile, aveva una bellissima villa che tutti dicono che è Arezzo. In realtà sì, guarda la città di Arezzo, ma l'ingresso del cancello è sul confine del comune di Arezzo con quello di Castiglionfibocchi. Quindi attenzione ai confini, che sia in comune di Firenze. D'accordo. E diciamo che Ovino, impegnato in questo grand tour all'inglese, arriva a Firenze con il portafoglio gonfio, ma cerca di non farsi fregare. Pertanto, Laura, dove mangiare a Firenze? Evitare posti... Oddio, mi stava venendo una parolaccia. Fregaturisti, ecco, volevo dire una cosa con la Iman. Ma fregaturisti nel senso che danno le fregature, oppure fregaturisti, cioè che danno le fregature ai turisti? Che danno le fregature e ci cascano i turisti. Allora Ovino deve ragionare da fiorentino, non da turista. Allora lo mandiamo in luoghi consigliati dai fiorentini, non consigliati da Google. D'accordo. Luoghi che non siano troppo con, che ne so, vista Duomo, oppure troppo sul Ponte Vecchio, troppo vista Cupola del Brunelleschi, no? È quel, cioè, troppo! È quel troppo, cioè se te c'hai un tavolo che, dal quale ammiri la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, stai sicuro che il caffè te lo fanno pagare 3-4 euro, allora evita. D'accordo. Allora, guardati i monumenti camminando, poi se devi fermarti a prendere un caffè o a mangiare, decentrati un po'. E guarda che il menù sia scritto bene, perché se il menù è scritto tipo maccheroni oppure con qualche sfondone, sicuramente ti vogliono fregare. E chiedi al fiorentino doc un consiglio spassionato e disinteressato. Quindi il fiorentino sa riconoscere il troppo, bellissimo. Effettivamente non è facile. E se no vai sul sicuro e vai a mangiarti un panino con l'anpredotto, e quello è una garanzia. E sei sicuro di provare una cosa unica che non trovi fuori dai confini di Firenze. E qui mi ripeto, però insomma vado orgogliosa del nostro panino con l'anpredotto. E non secondario è il vestiario, il come vestire a Firenze. Allora, uno che vive nella collina di Fiesole o vive sotto piazzale Michelangelo, che va a mangiare dove praticamente quello che gli fanno pagare è fiorentinamente accettabile, ma come ci si veste per non passare da provinciale o non passare da turisti? Ricordi, te l'ho già detto, bene ma non troppo. Sciamannato ma non troppo. Voi di provincia venite a Firenze rivestiti, come diceva la mia nonna, questo è per rivestirsi. Il vestito della domenica, ecco, non esageriamo, perché se no ti vedono che sei rivestito appositamente, quindi bene ma non dare nell'occhio più di tanto, ecco, sobrio. Ci sono delle marche da evitare, mi pare di capire. E la vuoi, te la vuoi sentire dire sta scarpa che da noi spopola! Da voi spopolano, diciamolo, da noi spopolano le Hogan. Sarà anche l'impopolarità della Valle come presidente della Fiorentina che ci ha messo del suo, però il fiorentino non compra le Hogan, non mi chiedere perché, questo non te lo so spiegare, sono comodo effettivamente. Se tu hai le Hogan e sei a Firenze e incontri un fiorentino, lui ti taccia subito, cioè puoi parlare fiorentino quanto vuoi, ma lui sa che tu non sei di Firenze. Ma il nostro vino, che ha il portafoglio strapieno, come sarebbe visto se comprasse roba, che ne so, in via Tornabuoni o in via Calzaioli? Si vedrebbe subito che sono roba da boutique. Come passerebbe in giro per Firenze? Come un russo, uno vino russo. No, non so se ti riferisci a quei con vestiti. Le scarpe a punta! Ok, Alibaba! È vero. Ti riferisci a vestiti di migliaia di euro che sono nelle vetrine di via Tornabuoni, allora insomma il fiorentino non le compra. Se sì, in via Calzaiolo ci sono negozi più abbordabili, allora sì, sobrietà, insomma, poi fondamentalmente il fiorentino si fa gli affari propri e quindi che Ovino faccia quello che vuole, basta che non tocchi certi argomenti, ecco. E qui veniamo al parlare, e il parlare io lo distinguerei in due sezioni, e cioè il come parlare e il di che cosa parlare. Perché dico questo? Mi è capitato recentemente, era molto tardi, in birreria, arriva una macchina di due un po' strani, e insomma ci mettiamo a parlare e si scopre che uno dei due è fiorentino di San Frediano, tra l'altro un daspo di 7 anni perché alla partita aveva rotto i denti a uno, insomma una storia di questo tipo. E lui mi ha ascoltato bene, e poi a un certo punto ha detto: hai un accento strano. Come, un accento strano? Insomma, parlo come parlo. Dice: sì, hai un accento lievemente della costa. Beh, insomma, la famiglia da parte di mio padre viene dal Pisano, ma insomma, quello si era accorto che nel mio DNA il 50% di questo DNA non era della provincia di Firenze. Insomma, come parlare? C'è un modo? Allora, noi siamo un po'... cioè siamo così convinti di parlare l'italiano perfetto che non ci smuove, anche se diciamo cose, se usiamo termini non italiani, siamo in ogni caso convinti di aver ragione. E allora innanzitutto parti sempre pronto ad avere torto, a essere smentito. Ah sì. Ora magari non, cioè, è il vostro tipo caso. Parlare come Marasco non va bene. Oh, cosa venne c'era giù? Non così. Secondo me il fiorentino troppo calcato, tipo invece che è, già ti dà l'idea di provinciale, insomma magari lo dicono più a campio, all'improneta. D'accordo. Allora quello, il fiorentino doc, insomma ci tiene, si quindi sporta. Parla manzoniano per imparare. Parla manzoniano, ha sciacquato i panni in Arno. Ogni tanto, insomma, gli è rimasto un po' di sapone, non l'ha sciacquato bene, però non glielo dire. Forse, ecco, quello che ci differenzia dagli altri toscani è il, non tutta la Toscana, ma insomma, il non mozzare i verbi. Allora, in tantissime parti della Toscana vado a mangiare. Sulla costa tantissimo, anche a Siena. A Siena, a Lucca. Vedi, quasi tutti lo fanno, e noi ci teniamo a rimarcare il fatto che parliamo correttamente in questo senso, finendo la parola. Quindi andiamo a mangiare, se te mi dici a mangiare, io ti guardo storto e capisco subito che non sei fioentino. Non troncate i verbi! Venite a Firenze e non troncate i verbi. Come parlare, insomma... manzoniano, ecco, manzoniano, la risposta secca è manzoniano. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Di cosa parlare? Semplice. I fuochi di San Giovanni, il calcio storico, la Fiorentina se ha vinto perché si è perso guai, e poi non mi viene in mente altro. Parlare male dei Della Valle. Parlare male della Juve. Lamentarsi del sindaco. Dire quanto si stava meglio prima della tranvia. Allora, ok, se dici questo, secondo me conquisti tutti. Come ci hanno ridotto quelle strade per colpa della tranvia. Il traffico è un argomento, insomma. Lamentarsi del traffico, della mancanza di parcheggi. Funziona. Sì, gli argomenti caldi che abbiamo sviscerato durante queste 23 puntate. Allora, chi deve venire a Firenze, prima si ascolta le nostre 23 puntate e poi verrà accolto a braccia aperte, sono convinta. E che cosa espressamente non dire a un fiorentino? Juventus a parte, insomma, lo diamo per scontato. Non fargli mai il verso, la Coca-Cola con la canna. È odioso! Non se ne può più, non se ne può più. Veramente, queste banalità. Ben pasciuti, ben rivestiti e con un linguaggio arrotato, dove si va la sera per conoscere i fiorentini Utopia, perché mai faranno amicizia con uno fuori dalle mura. Comunque, ah, forse con te no, insomma, se tu fossi una bella donna con tacco a spillo, c'è qualche speranza. D'accordo, magari. Ma comunque avrebbe il marchio dell'infamia. Sicuro, sicuro. Cioè, possono dire quanto è bella quella, poi questa apre bocca, magari c'è un accento vagamente diverso dal fiorentino, anche se, che ne so, viene da Compiobbi, già viene tacciato. No, non ci mescoliamo. D'accordo, quindi c'è da stare molto molto attenti a come si parla, per chi è fuori regione o per chi è fuori Italia, occhio che vi sgamano subito. E la sera, insomma, dove si va? Dimmi dei posti, nel Lungarno, nel Ponte Vecchio, a sentire il sindaco che suona il violino perché il comune ha da fare cassa. Insomma, dove si va di bello? Sul Lungarno si va, bravo, hai detto bene, perché d'estate si cammina, si hanno messo questi localini all'aperto che sono carini, poi si può arrivare fino a Santo Spirito, bivaccando un po' sulle scale della piazza. Non si va verso Santa Croce perché lì è patria degli stranieri. E non ci d'accordo. Non ci si mescola. Santo Spirito, ci vendano la roba illegale. Non si dice, quando mai. Poi va dove vuoi, cioè nessuno si rompe le scatole, se te non rompi le scatole, cioè, proprio sei libero di fare ciò che vuoi. Però il fiorentino, fiorentinoide, che è pure membro, chi lo sa, insomma, che c'ha anche lui il portafoglio pieno, qual è un posto, il posto più alla moda dove andare? Ma non lo so, Giorgio, io non sono alla moda, io sono... Ti faccio un esempio, per esempio un bar, uno frequenta il bar, c'è un bar famosissimo a Firenze, Giacosa, che ora è stato preso da Cavalli, un bar, un caffè. È chiuso, l'hanno chiuso. Ma va! Ma dai, guarda, infatti, quella è la risposta giusta, vai a fare colazione da Cavalli. Niente, l'hanno chiuso. Giacosa non esiste più, Cavalli non esiste più. Ah, rimane sì? Lo storico di Giubbe Rossi, in Piazza Signoria, storico, rimasto in piedi. E che anche lì poi però è pieno di studenti fuori sede, insomma, ha perso il fascino di quando Giovanni Papini chiedeva che chiudessero le scuole da quel bar, se era lui, se era Giovanni Papini che ha scritto quel livello. Insomma, d'accordo, posti fighi o alla moda ce ne sono, ma non sono come a Milano il must dei must. Il Colle Bereso, no, ecco cosa mi sfuggiva, te l'avevo detto anche in un'altra puntata, il Colle Bereso sì, è un posto fighettissimo e ci può incontrare anche calciatori della Fiorentina, quindi, insomma, il top. Chiaramente, insomma, ci sarà un'accettazione all'ingresso, ci sarà tutta una serie di filtri, non è che il primo ovino che viene dalla campagna, insomma, lo fanno entrare. Ti ripeto, se ovino segue i miei consigli di queste 23 puntate, sì. Te non lo so, insomma, se ti vuoi presentare col trattore le scarpe piene di fango, forse viene rispedito a mittente. D'accordo. Pure se è un trattore Lamborghini, scusa. Oddio, potresti provare. E Laura, cosa non perdere a Firenze? Quegli eventi o quei luoghi che chi viene dalla campagna o chi viene da fuori Firenze, secondo te, ha da vedere, visitare, conoscere sì o sì, perché poi anche nelle conversazioni manzoniane, insomma, gli venga fuori il fatto che lui quei posti li conosce o li ha visti. Qui sono seria, dai, gli Uffizi, Santa Croce, le Cappelle Medice, insomma, il patrimonio artistico nostro non bisogna dimenticarselo, che è il migliore del mondo. Quindi suggerisci di visitarsi i musei principali, di visitarsi Pitti, il giardino di Boboli. Boboli, sì, sì, sì. Partecipare a eventi tipo, che ne so, Pitti Moda. C'è Pitti Uomo questi giorni e niente, il traffico è congestionato. Vedi gente eccentrica che va in giro veramente vestita in modo fantastico, secondo me. Che sono provinciali che vengono a Firenze tentando di darsi un tono. No, è fantastico. Dice, è creativo, no? Ma dai, Pitti se lo può anche perdere. D'accordo. E andare allo stadio, che dici? Allora, quando ci rifaranno un nuovo stadio, ne riparleremo. ad oggi ti dico, si sta tanto meglio a guardare la partita in televisione. D'accordo, d'accordo. Quindi anche lì, se si parla dello stadio, si sa come dire, insomma, e lamentarsi di quello e di quell'altro. Lamentati di quando piove che ti prendi l'acqua allo stadio per andare a vedere la Fiorentina che non vince niente da non so quanti anni. Anzi, no, questo lo può dire il fiorentino. Non perché, il insomma, non fiorentino. Il non fiorentino, se lo dice, viene infamato, giustamente. Il fiorentino che si può autocriticare, però le critiche le accetta malvolentieri. A proposito della Fiorentina che non vince, ho sentito una teoria molto interessante da un vecchio ultra, e la sua teoria è questa: quando la Fiorentina, come qualsiasi squadra, riesce ad avere un buon gruppo, per vincere qualsiasi cosa è necessario integrare quel gruppo e investire ulteriormente. Mentre la politica, secondo lui, della Fiorentina è proprio quella di, quando ci sa un buon gruppo, si comincia a venderlo, a dare gli attrezzi e si ricomincia da capo. E lui dice, è chiaro che così non si vince mai. Esatto. Il Barcellona non fa così, il Real Madrid non fa così, ma neanche il Liverpool o lo Schalke 04, che ne so. Fatto sta, come ultima domanda, rivelaci un qualcosa che solo i fiorentini sanno. Come hai presente Babe, maialino coraggioso, che alle pecore gli dava la parola d'ordine e quelle si muovevano come se fosse un cane? C'è una parola, un concetto, non so, il nome segreto di Dio dei massoni? Sì, no? Allora l'avevo già accennato l'altra volta. Allora, quando te vai in una... Ah no, aspetta, due parole. Il Tony. Solo a Firenze diciamo il Tony. Sai che cos'è il Tony? È la tuta. Esatto, allora forse ha varcato i confini fiorentini, però insomma. Io lo so perché uno di Firenze me lo spiegò. Ecco. Altrimenti non avrei mai indovinato che cos'era un Tony. Il Tony, che poi puoi dire il sotto del Tony, quindi pantaloni, o il sopra del Tony, quindi la felpa. E tutti dicono, ma perché dice Tony? Basta dire tuta. Eh no, la tuta può essere anche tipo una salopetta, una tuta qualsiasi. Il Tony è la tuta da ginnastica, quindi è una parola di quattro lettere che deriva da Tu New York, qualche cosa che era scritto sugli abiti dei soldati, non so di preciso. Pensate. Però insomma c'ha un motivo storico questa parola. Il Tony però è veramente usatissimo a Firenze, è una delle parole per le quali ci prendono più in giro. Il Tony. E poi ecco, quando vai a comprare qualcosa in una bottega, che ne so, un etto di prosciutto, un etto di mortadella, poi ti chiedono altro? E te cosa rispondi? E solo il fiorentino sa la risposta giusta. Altro! Esatto! Qualcosa l'ho imparato. Ha imparato. Allora, ad altro si risponde altro, che vuol dire che non voglio nient'altro. Capito? Non vuol dire sì, qualcos'altro. Altro è la risposta ad altro, e vuol dire appunto così. E penso che qui siamo proprio unici in questo. È manzoniano, ma non lo so. Io, che sono una purista della lingua, non approvo questo altro. Ma insomma, mi devo sforzare un po' per capirlo, ma insomma, sono i misteri della fede. E allora, campagnoli, ormai avete, mi auguro, io sono ancora troppo zuccone, e ora le zucche cominciano a crescere, insomma, abbiamo imparato tutta una serie di piccoli trucchi per sopravvivere a Firenze senza che si sia derubati o cazzottati, o quello allo stadio, insomma, 7 anni di Daspo, perché a Firenze è gente che guarda alla forma, alla bella forma, guarda al portafoglio, ma è anche pronta a tirare due cazzotti quando è il caso. Non a caso lo sport cittadino per eccellenza è il calcio storico. La dice lunghissima. Non è le bocce, ecco, per dire, oppure la scala 40. E allora, in attesa dei fuochi di San Giovanni, in attesa dello scoppio del carro, in attesa del concerto di Capodanno, dove diciamo di essere stati quando in realtà siamo stati a casa, insomma, salutiamo Laura e la ringraziamo per averci guidato nei meandri della vita fiorentina. Prego, sono molto triste che finisce qua. questa stagione finisce qua. L'idea di portare avanti i progetti, da quant'è Laura? 30 anni che ne parliamo, insomma, ora che stiamo concretizzando qualcosa sarebbe assurdo mollare. Ma l'uomo propone, qualcun altro dispone, vedremo quello che succederà. Salutiamo gli ascoltatori di Radio Big World, salutiamo lo staff della radio che fin qui ci ha seguito e ci ha sostenuti per andare in onda, e riveliamo un ultimo, ultimissimo segreto. L'unico vero modo di essere fiorentini e di non essere scambiati per qualcos'altro, Laura, dimmi se sbaglio, è l'essere nati nel comune di Firenze. Vabbè, quello è anagrafe, è oggettivo, no? Non ti puoi sbagliare, basta aprire la carta d'identità. È incredibile, ma vero, io sono nato nel comune di Firenze! Dai, ma allora, ma cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo finto, cioè mi hai preso in giro. Alla fine i fiorentini, che si vantano tanto per la loro ironia, poi possono essere così raggirati da un provincialotto come te. Colpo di scena! Colpo di scena! volevi il finale a sorpresa, c'è stato. Grazie davvero, io sono stata veramente bene in tua compagnia, in compagnia degli ascoltatori, e a presto.